Valentina, che mi passa Federica, quella strana sua amica. Ciao Federica, sei a casa di Paola? Ciao Paola, ma chi sei? Daniela? Pronto? Sì, chi sei? Non ti sento. Pronto? Sì, ma chi sei? Vuoi parlare con Paola? Federica, sei a casa di Paola? Ciao Paola, puoi passarmi? Aspetta, ma chi c'è? Lì con voi. Aspetta, ma chi c'è? Volevo dirti che io sono pazza di te. Volevo solo dirti che ti amo ancora. Mi hai dato quello che cercavo dentro me. L'amore mi sale dal cuore quando penso a te. Sono io, puoi passarmi? Ciao, Sara, come stai? C'è lì con te Giulia? Ciao, Giulia. C'è accanto a te Claudia? Ciao, Claudia. Puoi passarmi anche Gemma? Ciao, Gemma. Ma Valentina, che mi passa Federica, quella strana sua amica. Ciao, Federica. Sei a casa di Paola? Ciao, Paola. Puoi passarmi? Puoi passarmi? Puoi passarmi?